po' è una specie di vendetta, ma è una inevitabile vendetta in qualche modo, perché è una vendetta che si è consumata anche in parte controvoglia, ma che in qualche modo era impossibile evitare. Vendetta di chi? Vendetta dei partiti indipendentisti contro il governo Sanchez, che in qualche modo invece loro avevano permesso, perché ricordiamo che la mozione di sfiducia che scalzò Rajoy dalla Moncloa, dal palazzo in cui ha sede il governo spagnolo, venne votata necessariamente anche dai partiti indipendentisti. Ma diciamo quella breve luna di miele si è rotta già da tempo, perché in realtà c'è un grossissimo problema che il governo Sanchez ha ereditato da governo Rajoy, che è quello della Catalogna, soprattutto un piatto avvelenato, visto che stiamo parlando qui di vendetta, continuiamo nella metafora, è un piatto avvelenato perché invece di gestirla politicamente il governo Rajoy consapevolmente decise di gestirla attraverso le armi, diciamo, da un lato della giustizia e dall'altra anche proprio dalle armi vere, dai manganelli che piovvero sulla testa dei votanti del referendum dell'1 di ottobre. Quindi naturalmente questo modo di gestire il problema in realtà continua ancora oggi, perché i leader indipendentisti sono in carcere, alcuni da quasi un anno e mezzo, sono tutti accusati di reati gravissimi che secondo molti giuristi, diciamo un pochino più freddi, sono dei reati assolutamente esagerati, perché naturalmente è vero che gli indipendentisti, con la loro diciamo così disobbedienza alle indicazioni date dalla Corte Costituzionale spagnola e con aver tirato la corda il più possibile rispetto ad alcune norme, alcune regole del gioco, hanno infranto delle leggi, ma certamente non si può parlare né di sedizione né di ribellione, perché è sempre stato fatto tutto in modo molto pacifico. Ma se non ci fossero state queste accuse così gravi, il processo, diciamo, le accuse le avrebbero portate ai tribunali, diciamo, di più basso rango e soprattutto tribunali qui in Catalogna, cosa che invece il governo e le pubbliche accuse hanno voluto evitare a tutti i costi, per cui per portarli davanti al Tribunale Supremo, che è un'istanza in qualche modo, adesso è un po' lungo da spiegare, ma in qualche modo indirettamente politica, li hanno dovuti accusare di questi reati gravissimi, e quindi, diciamo, questo peso di queste accuse così gravi e di questa, diciamo, della presenza di sostanzialmente prigionieri politici, cioè i politici che sono in carcere per le loro idee, anche se la pubblica accusa continua a dire per le loro azioni, ma insomma in sostanza in realtà sono in carcere per le loro idee, almeno in buona parte. Ecco, tutto questo pesa moltissimo sul clima politico, ed è vero che il governo Sanchez in questi mesi ha cercato di riaprire un dialogo con la Generalitat di Catalogna, ci sono stati dei piccoli passi avanti, ma in realtà il clima è molto brutto, innanzitutto perché la destra soffia sul fuoco ed è stata subito pronta a accusare Sanchez di essere un venduto, un traditore della patria e tutti questi termini così molto altisonanti, e dall'altra perché il governo delle Generalitat ha anche lui, diciamo, la pressione dal basso di non vendersi a sua volta al governo spagnolo, per cui in realtà queste trattative che si sono sviluppate in questi mesi sono state sempre molto nascoste, perché nessuna delle parti si pensava di dire che stava trattando con l'altra, e alla fine, diciamo, la settimana scorsa, quando la destra ha montato un incendio su una sciocchezza, cioè che il governo spagnolo aveva deciso di accettare questa figura di un mediatore, relatore, notaio, insomma è stato chiamato in molti modi diversi, perché in qualche modo aiutasse, facilitasse dei colloqui, quindi una cosa tutto sommato abbastanza innocua, e che era una piccolissima vittoria simbolica dei catalani. Per tutto questo la destra appunto ha montato uno show abbastanza anche indegno, e il governo si è tirato indietro, perché è un governo debole, ricordiamolo, perché è molto sensibile a questa questione che ha sospinto a tirare fuori la destra, cioè di vendersi agli indipendentisti catalani, e quindi da un lato il governo spagnolo ha peccato così di mancanza di coraggio, dall'altro il governo catalano, i partiti catalani, diciamo, anche e soprattutto sono stati poco abili, diciamo, nel gestire la microscopica finestra di opportunità per, diciamo, non peggiorare la situazione, e per cui a un certo punto il governo Sanchez, anche questo un tempismo purtroppo molto sfortunato, ha presentato la finanziaria per il 2019 questa settimana al Congresso. Gli indipendentisti hanno deciso di, diciamo, bloccare il cammino di questa finanziaria assieme alle destre, e hanno fatto questo gesto, come dicevo all'inizio, un po' malvolentieri, perché in realtà tutto sommato questa era una finanziaria molto migliore delle precedenti, anche se naturalmente non era perfetta. Era una finanziaria che dava molti più soldi ai catalani di quelli che mai loro si sono sognati di ottenere, perché per la prima volta dopo quasi 13 anni il governo spagnolo rispettava una norma dello statuto catalano che prevedeva, diciamo, una certa percentuale di investimenti in Catalogna. Era la prima volta che succedeva, per quanto fosse obbligatorio, ma non era mai stato rispettato. Insomma, hanno buttato all'aria questa piccolissima finanziaria opportunità, perché ovviamente questa settimana inizia il processo, perché ovviamente il clima è molto difficile, perché appunto il governo la settimana scorsa si è tirato indietro da questa trattativa un po' mezzo segreta che stava facendo per abbassare i toni. È interessante capire adesso anche un po' la prospettiva, perché sappiamo che, insomma, l'apice dello scontro con la Catalogna c'è stata col Partito Popolare. Ora, andare alle elezioni potrebbe, come dire, favorire la destra, non solo quella storica ma anche quella emergente paranazista di Vox, che abbiamo già visto vincere in Andalusia e fare un'alleanza anche per governare l'Andalusia, considerando anche che Podemos, lo abbiamo raccontato anche da queste frequenze pochi giorni fa, ha dei problemi interni, una pseudo scissione. Quindi quali sono le prospettive? Sì, è proprio così. Adesso Vox per fortuna non ha vinto in Andalusia, ma certamente ha ottenuto un risultato importante, e certamente grazie al voto la destra è al potere in Andalusia, ed è molto probabile che questo scenario si ripeterà a livello nazionale, ed è anche per questo che i partiti catalani non saltano di gioia, diciamo, all'aver detto di no alla finanziaria di Sanchez, perché questo molto probabilmente porterà delle elezioni anticipate. Ed è vero quello che dicevi tu, cioè che da una parte c'è questa destra ringalluzzano, sei un po' cresciuto, ma insomma neanche tanto, però certamente c'è questa destra molto spaventosa che viene data ormai al 10%, quindi insomma una percentuale non piccola. Ed è anche vero che la sinistra è un po' poco forte, perché Podemos si è indebolito e probabilmente non avrà tempo di riprendersi prima delle elezioni. C'è da dire una cosa importante: in realtà il governo di Sanchez non è obbligato a convocare le elezioni, perché, diciamo, non esiste il meccanismo della fiducia come quello che conosciamo noi in Italia, ma, diciamo, in teoria quindi lui potrebbe andare avanti per un altro anno a forza di decreti, se riesce a farli approvare. Ma è ovvio che la situazione politica è tale per cui molto probabilmente domani, venerdì, dopo il Consiglio dei Ministri, Pedro Sanchez, che è quello il capo del governo, è colui che convoca le elezioni, probabilmente annuncerà una data per le elezioni, una data che comunque è anche una questione non banale, perché a maggio, come sapete, ci sono le elezioni europee, e qui in Spagna coincidono con le elezioni amministrative in cui si eleggono tutti i comuni e alcune anche comunità autonome. Alcuni vorrebbero farli coincidere, altri no, ci sono molte ragioni per cui avrebbe più senso o no farle coincidere, però diciamo la scelta della data sarà importante. Sarà prima di queste elezioni, sarà dopo, sarà lo stesso giorno. Da questo anche si potranno capire varie cose, per esempio quanto Pedro Sanchez punta a rimanere là dopo, oppure quanto in realtà gli ha già perso il governo spagnolo. Perché sì, è vero, i risultati elettorali, almeno secondo le inchieste pubblicate ieri, danno una probabile vittoria, diciamo, delle tre destre ormai.